Bino, a.k.a. Binè, 2010, molestamente parlando, il fo nella casa, sarò il fo presto, in combutta con Bino, chiaro Roccia, you know. Sono Bino, a.k.a. Binè, molestamente parlando, da New York City. Ma che New York City, questa qua è la mia città ed è un culo. Dai Bino, non ti vergognare della tua città. Dai, stai con i tuoi amici e passati delle belle serate in compagnia. Nella mia città gira tutto normale, un giro, un raggiro, a patto che sia legale. La mia città ama tanto parlare, vuole sapere tutti i nomi, ma non doversi presentare. La mia città vive nell'ostilità, da quando l'ha presa in culo dando l'ospitalità. La mia città è una mini città, con le mini donnine, con le mini dentro una mini. I figli di puttana e figli di papà, e le figlie puttane che si fanno gli altri papà. Noi viviamo un clima morale collettivo, arriva almeno un chilo e ci ritorna sorriso. La mia città è divisa in realtà, la mala vita, la bella vita, con le brutte verità. La mia città non vive di novità, convive con la routine ed è sempre su chi va là. Oh, sabato ci sei, Saro? Ma guarda, non credo, credo boh di stare a casa. Non so poi che faccio alla fine. Nonna che serve, non c'è mai niente. Nella mia città non c'è mai nulla di nuovo. Dopo un giro in centro, in passeggiata, ti domandi a quale scopo. La mia città troppo spesso resta incline, non è per niente come appare nelle cartoline. La mia città a volte non è niente male, a volte indifferente, a volte la vorrei bruciare. Nella mia città c'è anche chi riga dritto, e chi riga dopo riga resta sempre più convinto. Gli altolocati, i loro figli educati, studiosi, facoltosi, poi festini sono i più sfasciati. Nella mia città ciò che conta è l'apparenza, e vanno forte amicizie per convenienza. Nella mia città gli abbaglioni, i chiacchieroni, i finti ricchi indebitati e i finti barboni. La mia città nella merda già da un pezzo, che vi piaccia o non vi piaccia, noi ci nuotiamo in mezzo. Oh Pisce, ci sei sabato? Eh no, io alla fine cosa faccio qua? La sera è tutto chiuso, veramente? In giro non c'è nessuno. Porco Dio. A fine della settimana me ne vado a Milano. Ma va, come mai? Perché? La mia città a volte penso che sia un'altra, perché se fossi come lei non lo direi che è così falsa. Ed è così fre per ogni situazione. La sera la gente non esce perché c'è la televisione. La mia città è la città dello spasso. Se sei giovane ti chiami Benjamin Button. Le banchine nei viali e pochissimi locali, ma la squadra di bocce è a livelli nazionali. Nella mia città di buono c'è l'estate, un sacco di turisti, le facce tutte abbronzate. E poi per le serate macchinate traversate, poi sempre più pattuglie, più patenti bruciate. La mia città è un bel posto tranquillo, video sorvegliata sia di notte che di giorno. Nella mia città poi la gente non si sfoga, e chi vuol far casino qua si calma con la droga. Ciao! No, sì, trovo abbastanza bene qua. Ah, sì? Anche a... c'è il mare, si respira bene, città pulita, la gente è tranquilla. Sì, sì, alla fine sì, a me piace un casino star qua. Ma vaffanculo, culo, va. Ma la testa di cazzo, ma che cazzo ci sta? Ma come fa? Ma come cazzo fa? Dio, vabbè, dai, lascia perdere.